Mike Zero. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Tu resta qui, resta qui, resta qui. Non andare più giù, giù, più giù. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Va via di qui, va via di qui. Ma il peggio è qua, è qua giù, è qua giù. Ehi, è lei che mi chiama, si chiama giustizia. Vuole la fama, la tipa e la paga più redditizia. Cristo che quando muoio mi rendirizza. Un corpo migliore in una metropoli che socializza con le persone, non come questa che mi rinchiude in prigione. Poi sdrammatizza in televisione se si alcolizza. La giovane mente poi è normale che rimane in tensione. La gente che schiavizza a sé la propria attenzione. Se gli occhi rivolti in su chiedendo attenzione al Signore, lui risponde evocando un'apparizione. Non sono i grammi. Comunque non si sopravvive credendo negli ologrammi, neanche aspettando il nostro salvatore. No, le mani sono l'eredità dei nostri avi, ed è come ucciderne uno ogni volta che te ne lavi. Le linee sono tutti i nostri sosia, curdi sendo slavi, cittadini del mondo, tu che li emarginavi. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Tu resta qui, resta qui, resta qui. Non andare più giù, giù, più giù. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Va via di qui, va via di qui. Ma il peggio è qua, è qua giù, giù, è qua giù. Sale la paranoia e scende quella di averti. Ho voglia di dirti e di vederti in quei momenti che rivivo le notti. Ma no che non ti perdo, ma no che non ti mento, ma no che non ti trovo. Perché tu sei una stella persa nel mio mondo. Uno squillo poi chiudo, ti penso e ripenso, non ricambio e poi concludo. Mi manca, adesso non viviamo e se non ci parliamo segniamo la sconfitta di quello che sogniamo. Adesso vado a letto, oggi non ti chiamo. Buonanotte piccola PS, ricorda che t'amo. Io guardo bene il paesaggio, il vento di passaggio, e non importa tanto, importa quello che è scritto, quello che non ti ho mai detto. Ma adesso di te rimane un foglio variopinto che aspetta di essere scritto. Mi manchi veramente, sarà una fissa perché ti tengo in mente. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Tu resta qui, resta qui, resta qui. Non andare più giù, giù, più giù. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Va via di qui, va via di qui. Ma il peggio è qua, è giù, qua giù, è qua giù. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Tu resta qui, resta qui, resta qui. Non andare più giù, giù, più giù. Non piangere per chi sale lassù, lassù, lassù. Va via di qui, va via di qui. Ma il peggio è qua, è qua giù, giù, è qua giù.